Ci sono cose che non lascerò e che dividerò con la gente cui voglio bene veramente, e altre cose che non scorderò ma che mi porterò qui nascoste come un gioiello appariscente. Ora io lo so che questo è il modo per dirtelo, semplicemente io ti porterò per sempre nella mente, io ti penserò per sempre dolcemente. Io lo so che per me tu sei ok, ti voglio bene veramente, io ti porterò per sempre nella mente, io ti penserò per sempre dolcemente. Io lo so che con te mi sento ok, ti voglio bene veramente. Se non ho la certezza che si sta parlando seriamente, e altre cose che non capirò ma che io cercherò di vedere se me lo chiedi umilmente. Ora io lo so che questo è il modo per dirtelo, chiaramente io ti porterò sempre nella mente, io ti penserò per sempre dolcemente. Io lo so che per me tu sei ok, ti voglio bene veramente, io ti porterò per sempre nella mente, io ti penserò per sempre dolcemente. Io lo so che con te mi sento ok, ti voglio bene. Nella mente io ti penserò per sempre dolcemente. Io lo so che per me tu sei ok, ti voglio bene veramente, io ti porterò per sempre nella mente, io ti penserò per sempre dolcemente. Io non so se hai capito oppure no, non mi sei indifferente. Da da da.